sono perso qua giù, in questo mare di me. Naufrago nei miei pensieri, esule dentro di me, senza una rotta per ritornare. Ho perso bussole e carte, ho incontrato mostri e sirene, lasciato fede e certezze, in viaggio fra lì e catene, senza un timone per navigare. E cerco una vela, un vento, una corrente che mi riporti al largo, e un mattino trovare poi la mia Itaca. La mia Itaca.